Linee d'ombra di Matteo Caccia. Linee d'ombra è un programma che vi racconta storie, ve lo racconta tutti i giorni alle 15 dal lunedì al venerdì, e all'interno di quelle puntate c'è in chiusura una storia seriale, una storia che vi raccontiamo giorno dopo giorno per la durata di a volte un mese, a volte addirittura un mese e mezzo. Questo piccolo spazio dalle 21.30 alle 22 il sabato sera vi raccoglie quelle 5 puntate della storia seriale della settimana. Queste a me sono le ultime 5 di questa storia che Mauro Pescio ha raccolto e ha raccontato per noi. La storia di Cheryl, che era una ragazza di origine italiana, di famiglia italiana, che si trovava negli Stati Uniti. Viveva negli Stati Uniti da diversi anni e si trovava in una scuola dove c'è stato uno di quegli attacchi portati da un ex allievo della scuola nei confronti dei suoi ex compagni. Sono morti in 17, lei è stata una sopravvissuta e quella storia ce l'ha raccontata. Questa è la parte finale. Una volta a casa cerco subito di mettermi in contatto con la mia migliore amica, che era rimasta bloccata in classe, che era quella che conosceva benissimo l'assassino. Ma sono tornati alle 4:30 di pomeriggio, perché non si passava. Noi abitiamo cioè dietro l'angolo praticamente dalla scuola, e avevano bloccato tutte le vie di uscita, di conseguenza per tornare a casa dovevamo fare un giro abbastanza largo. Io ero al lavoro e lavoro tipo a 20 minuti, mezz'ora da lì, e sono arrivato a casa alle 5 perché era tutto intasato. Ma a parte la mia amica, non avevo molte energie per chiamare qualcuno. Ho aspettato fondamentalmente che fossero gli altri a chiamare me. Ho dato una scorsa ai social, Instagram, Snapchat e sui siti scolastici per vedere i miei amici, ma poi non riuscivo molto a concentrarmi su quello che è successo e ho aspettato che fossero gli altri a mettersi in contatto con me. And the first person I talked to was when I had got home. E la prima persona che mi ha chiamato dopo che sono tornato a casa è stato un amico che vive a Miami. Non frequenta la mia scuola, vive molto lontano lui. Mi ha chiamato perché aveva sentito la notizia, ma non sapeva che quella era proprio la mia scuola. E quando gli ho spiegato che invece lo era e che io ero una delle persone sopravvissute al massacro, lui ha detto solo: "Oh merda". Lui è stato la prima persona che ho sentito una volta tornata a casa. Quindi a casa eri con tua mamma? My mom, my brother, and then my sister came later. Sì, io sono arrivato in tempo con la seconda figlia. E come? E avevano appena arrestato il tipo dietro l'angolo. No, l'ho trovata sconvolta, era preoccupatissima, stava cercando di assicurarsi che tutti i suoi amici stavano bene. Però sì, rimane un po' frastornato proprio, pure noi non ci credevamo. Poi le notizie escono piano, abbiamo solo capito la gravità della situazione. All'inizio si pensava che fosse una discussione fra studenti e uno aveva tirato fuori la pistola. Piano piano uscivano sempre più informazioni e il conto dei morti saliva, il conto dei feriti. Penso solo fino alla sera tardi abbiamo capito quanto era grave la situazione. Ci hanno messo un bel po' a svuotare la scuola, ci hanno messo un bel po' a far uscire tutti, a portare i soccorsi, a capire. Ci vuole un po'. Quando piano piano cominciano a mettere i pezzi insieme, capiscono un po', fanno il conteggio, e penso per la sera si sapeva bene. E poi a quel punto lì, il nostro isolato, il parco dove io lascio lei, che sta a, diciamo, neanche un chilometro da casa nostra, quel parcheggio era inondato da come si chiama, news agency, c'era sì. CNN, cioè. Oh,

hanno impiantato una piccola postazione rialzata della polizia al centro del prato. L'edificio dove è successa la sparatoria è completamente chiuso, in attesa di essere abbattuto. Ogni tanto girano gli elicotteri. Prima c'erano molti accessi alla scuola, ora li hanno chiusi tutti tranne uno e ci hanno costretti a usare zainetti trasparenti per controllare cosa c'è dentro. Tutte le mattine dobbiamo per forza passare l'ID badge e attraversare una specie di porta scanner per entrare. È una scuola veramente enorme, è veramente bella, è proprio un campus, ma adesso è tutta barricata. La sicurezza è altissima al momento. Da una parte era assicurante, ma più che una scuola oggi sembra un carcere. Io amo la mia scuola e penso sia fantastica. Ci sono molti corsi extracurricolari, ci sono insegnanti fantastici che ci fanno fare un sacco di cose. Musica, sport, recitazione, tecnologia, astronomia. È davvero una scuola speciale. Nonostante siamo in 3500 è facile trovarsi, riconoscersi. Ma ora sono garantite soltanto le lezioni standard. Molti edifici sono chiusi e non ci possiamo nemmeno avvicinare a certi spazi, dove prima invece ci incontravamo. Abbiamo cambiato le classi e anche parecchi insegnanti sono cambiati. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Linee d'ombra. Siamo stati con Cheryl durante tutta quella terribile mattina. Ci abbiamo messo un mese a raccontarvela passaggio per passaggio. Cosa è successo a lei, cosa è successo alle compagne, ai compagni, ai professori, cosa è successo ai genitori, Giacomo, suo papà, di cui avete sentito e sentirete ancora la voce. Ci hanno raccontato ogni dettaglio e stiamo andando verso la fine. Stiamo cercando di capire oggi come sono le cose. And after the shooting, it was really hard to want to finish school because you. Due settimane dopo la strage sono tornata a scuola. È stato molto difficile ricominciare a portare a termine l'anno. Tutti noi, insegnanti compresi, ci siamo domandati cosa facessimo là, che senso avesse il nostro tornare in quella scuola insieme. Tutti noi che avevamo vissuto quella terribile giornata. Il significato del nostro ritorno non poteva essere soltanto quello di riprendere le lezioni tutti i giorni, prendere dei bei voti, terminare l'anno, specialmente ai corsi di matematica. Si sentiva il vuoto della mia amica che era rimasta uccisa quel giorno. Lei era bravissima in matematica. Aiutava noi che magari la matematica non la digerivamo volentieri. Alle interrogazioni cercava sempre di aiutarti e l'insegnante stessa spesso chiedeva a lei di assisterla e tutte noi, insegnante compresa, faticavamo a stare in classe senza di lei. La sua assenza era diventata pesantissima. Era molto difficile entrare in classe ignorando il fatto che certe persone non sarebbero mai più tornate. Abbiamo fatto un enorme cartellone con le foto dei nostri compagni che non ci sono più e l'abbiamo messo nel prato per poter continuare a vederli. Ma non avevamo voglia di parlarne. La scuola però è fantastica, hanno portato dei cani nelle classi, dei cuccioli, e hanno messo a disposizione dei terapisti. L'anno prossimo penso che sarà diverso, penso che sarà più facile, credo. Voglio finire la scuola con i miei compagni, quest'anno però è stato molto difficile. Molti di noi si sono depressi, molti si sono ritirati, hanno cambiato scuola. In molti abbiamo avuto crisi di panico. Una mia amica non riesce più ad uscire di casa. Tutti noi studenti abbiamo vissuto momenti così, tutti. Dopo la strage molti di noi hanno deciso di farsi un tatuaggio in ricordo dei nostri amici, quelli che abbiamo perso. E io ne ho disegnati per un po' di amici. Mi chiedevano spontaneamente, ti va di disegnarmi un tattoo? E allora ho disegnato un po' di fiori, di angeli, di nomi dei migliori amici persi. E allora l'ho scoperto, non dirlo a mia mamma, che da grande vorrei fare la tattoo artist. Vi abbiamo raccontato in queste settimane, in queste quattro settimane, la storia di Cheryl, e della sua famiglia. È una storia che ha a che fare con un avvenimento cruento e terribile del febbraio del 2018, quando un ragazzo, un ex allievo di una scuola in Florida, è entrato e ha, ahimè, ucciso 17 persone e ne ha ferite altrettante. Cheryl, che è di origine italiana, i suoi genitori sono italiani, viveva in Florida a quell'epoca e ci ha raccontato a Mauro Pescio tutta quanta la sua storia dall'interno. Oggi purtroppo questa storia si chiude e per chiuderla abbiamo al telefono il papà Giacomo, che avete anche già sentito attraverso la voce che ha raccolto Mauro. Pronto? Ciao Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Giacomo, innanzitutto grazie mille per averci raccontato così dettagliatamente tutta la vostra storia. Senti, sono passati un po' di mesi da quando Mauro Pescio ha raccolto il vostro racconto. Come state? Come sta Cheryl oggi? Molto meglio. Senti, a che punto è della sua vita? Cosa sta facendo? Sta ancora studiando? È ancora alla high school? Oppure... Sì, sta studiando arte e sì, anche un lavoretto, e bene avviata per ora. Vivete sempre in Florida, giusto? Sì, sì, siamo ancora alla stessa casa. Senti Giacomo, per quale motivo avevate deciso di andarvene dall'Italia? Motivi di lavoro principalmente. E siete arrivati negli Stati Uniti quanto tempo fa? Adesso sono 9 anni. Sì, di fatto siete americani ormai, avete cittadinanza e tutto quanto, immagino. Sì, ci stiamo lavorando. So che non è facilissimo. No, è un processo abbastanza lungo. Senti, Cheryl, cosa hai in mente di fare nel suo futuro? Cosa hai in mente di fare da grande? Adesso vorrebbe fare la tatuatrice, da quando è successo quello. Quindi, mi ricordo, l'aveva raccontato proprio ieri, nella puntata di ieri lo raccontavamo, che aveva detto a Mauro, aveva detto non dirlo a mia mamma, ma mi piacerebbe fare la tatuatrice. Quindi continua con questa sua idea. Sì, effettivamente dopo quell'episodio ha creato un paio di disegni per ragazzi che volevano in qualche modo commemorare i loro amici, e questa cosa gli ha dato una soddisfazione immensa, perché questi ragazzi poi se lo sono tatuati addosso, certo. E da lì è nata proprio questa passione, ha visto che ha riscontrato questo lato terapeutico quasi dei tatuaggi. E niente, adesso gli ho detto che comunque deve studiare, allora sto studiando arte, però comunque sempre con l'intenzione di diventare una tatuatrice. Senti Giacomo, in che modo il governo degli Stati Uniti o la scuola o lo stato della Florida, insomma non lo so, ha aiutato Cheryl e i suoi compagni nei giorni, nei mesi o negli anni successivi a quell'avvenimento? C'è stata una forma di accompagnamento? Ci sono stati incontri con psicologi? Sì. Quando sono tornati a scuola c'erano psicologi, più psicologi che studenti, in altro qua. C'erano animali di compagnia, i primi mesi non avevano quasi neanche studiato, era più un stare insieme, di raccolta, stare insieme, sì. E piano piano hanno ricominciato il curriculum dell'anno, però sì, no, e comunque adesso hanno aumentato il numero di psicologi e consulenti che hanno nel campus. Voi a casa ne parlate ancora? Cheryl ne parla ancora a casa con voi? Ogni tanto nasce il discorso, sì, che poi uno segue sempre le varie leggi che provano a passare, o che i riscontri politici, adesso ci stanno le elezioni, perciò riesce tutto il discorso continuamente. Certo, è di fatto un argomento politico, quello più che parla, però non è che... E il movimento Never Again, lei ne fa ancora parte, lo supporta? È molto calmato, c'è passata l'euforia iniziale, adesso un po' si torna alla normalità, in fondo qua non le toglieranno mai le armi ai cittadini, però insomma qualche legge si è mossa, sono molto più attenti, e comunque si è creato una specie più di, come dire, sta un po', non dissolto, però insomma stanno un po' più... I ragazzi stanno cercando, penso, di muoversi più nella loro vita. Certo, ciascuno per il suo. Senti Giacomo, l'ultima cosa e poi ti lascio davvero e ti ringrazio molto. Tu, guardando tua figlia oggi, rispetto a quello che è successo, rispetto alla vita che stai vivendo, ti senti di dire che è una persona felice? Sì, lei è sempre stata una persona molto allegra, felice. Comunque è una cosa che comunque l'ha segnata, però non ha, diciamo... Non ha cambiato il suo carattere, comunque è sempre stata solare come persona. Giacomo, ringrazio molto davvero te, Cheryl e tutta la famiglia, e in bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. E si chiude qua anche questo appuntamento con questa storia seriale. Questa era l'ultima puntata, da lunedì ricominciamo Linee d'Ombra con una nuova storia seriale, ma se avete voglia di riascoltarvela, questa potete andare sul nostro podcast, ovviamente sul nostro sito Linee d'Ombra, sul sito di Radio 24, e ascoltarvela anche in binge listening, cioè in questi piccoli shot che vediamo il sabato sera di mezz'ora. Potete ascoltarveli tutti e cinque di fila e recuperarvi tutta quanta la storia di Cheryl. Godetevi la vostra domenica, noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.